Gazan Play è un servizio innovativo che permette di fruire da cellulare contenuti digitali correlati con gli articoli presenti sul giornale cartaceo. Come funziona? Qual è la correlazione che voi tramite un cellulare, quindi diciamo subito che lo strumento è molto diffuso, tramite un cellulare che tipo di correlazione riuscite a fare tra il mondo fisico della carta e il mondo digitale del web, di internet? Esatto, il cellulare deve essere dotato di fotocamera e deve avere abilitata la navigazione su internet. Sul giornale cartaceo viene in coda all'articolo stampato un box che contiene un codice che si chiamano QR code, sono l'evoluzione dei codici a barre che adesso assomigliano di più a dei mosaici, diciamo così. Col cellulare installato un'applicazione molto leggera dedicata allo scopo, è possibile fotografare il codice viene tradotto dall'applicazione in un indirizzo internet e quindi sul browser internet del telefono compaiono i contenuti digitali associati all'articolo, ad esempio un filmato dell'arrivo della tappa del Giro d'Italia o quant'altro. Quindi potremmo dire che i cellulari dotati di fotocamera sono anche capaci di diventare lettori di codici, in questo caso non a barre, ma di codici un po' più moderni. Esatto. Senta, che tipo di altre applicazioni possiamo pensare o che tipo di altre applicazioni già esistono che sfruttano queste due cose, cioè il cellulare, un codice che viene stampato su uno strumento fisico che può essere o il giornale, ma immagino insomma etichette, pezzi di plastica, immagino che le applicazioni in questo caso siano molte e fantasiose. Assolutamente sì, oltre a estendere in digitale i giornali cartacei è possibile ad esempio stampando questi codici direttamente sulle confezioni dei prodotti ricevere sul proprio telefono informazioni più approfondite, nutrizionali sul prodotto, piuttosto che fotografare un codice a una pensilina di fermata di un mezzo pubblico e ricevere l'orario dei transiti del mezzo che stiamo aspettando, fino a cose più simpatiche se vogliamo, che sono il fatto che magari ci sono giovani che stampano una t-shirt personalizzata con su questi codici e chi li fotografa riceve delle informazioni di contatto.